Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Mi piacerebbe che in generale, quello che raccontiamo anche in questo film, avendo una grande ricchezza di menti preziose, piacerebbe che questa ricchezza potessimo sfruttarla qui, insomma, in questo paese, che potesse essere valorizzata nel nostro paese. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Apertura dal taglio cinematografico oggi con le parole dell'attrice Paola Cortellesi in sala tra 5 giorni col film Scusate se esisto, dove interpreta il ruolo di Serena Architetto, dal talento straordinario che dopo una serie di successi professionali all'estero decide di tornare a lavorare in Italia. L'intervista integrale su Corriere.it. E oggi, scusate se parliamo un po' di noi, focus sui giovani giornalisti che emigrano, Francia in primo piano. Oggi la frase della settimana è copyright del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Perché si dedichino risorse sufficienti a valorizzare i talenti italiani della ricerca, i giovani che vogliono accedere alla ricerca scientifica con un altissimo senso della motivazione, dell'impegno nella ricerca. E introduciamo anche l'antifrase della settimana, sottotitolo Quando il silenzio è d'oro. È copyright del sottosegretario agli esteri Mario Giro, che dice: quella degli italiani che si trasferiscono all'estero non è una fuga, come chi scappa da guerra e persecuzioni religiose, ma una scelta. Gli italiani che migrano all'estero non rischiano la vita. Oggi, rispetto al passato, non si parte più definitivamente. Parole quelle di Giro, che dimostrano un'assoluta non conoscenza del tema della nuova emigrazione professionale. Quando la fuga all'estero rischia di cominciare fin dall'università. L'Italia è tra i paesi europei con le tasse accademiche più elevate. Meno di uno studente su 10 riceve una borsa di studio, né sono previsti prestiti, ma solo agevolazioni fiscali per le famiglie. È quanto emerge da una relazione pubblicata dalla rete Euridice della Commissione Europea. E ora, per parlare di giovani reporter, trasferiamoci oltre Alpi. In Francia erano pronti a investire e scommettere su di me con un vero contratto di lavoro, mentre in Italia avrei dovuto io sborsare una cifra astronomica per stare ancora 2 anni sui banchi di scuola, senza alcuna garanzia di impiego per il futuro. Andrea Paracchini, 32 anni, è giornalista e scrittore, lavora in Francia. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Dove vanno i cervelli in fuga europei ed italiani? La meta tradizionale si conferma in Regno Unito col 33%. A rivelarlo la Commissione Europea. L'Italia esporta soprattutto medici che privilegiano Gran Bretagna e Svizzera. Nell'ultimo decennio, su 100 dottori in medicina che lasciano il paese d'origine, 52 sono italiani. Dalla penisola emigrano anche insegnanti, infermieri, istruttori e ingegneri industriali. Più in generale, l'Italia presenta un bilancio in rosso tra cervelli in fuga e professionisti in ingresso. In Europa gli stati con saldo positivo sono Germania, Regno Unito e Belgio. Dopo prima Prodo, iniziativa del consolato italiano a Londra, anche la nostra rappresentanza a Parigi lancia una serie di incontri per aiutare i giovani connazionali di recente emigrazione ad ambientarsi all'estero. L'iniziativa si chiama Primi Passi, ce ne parla il console generale Andrea Cavallari. Si cerca di rispondere attraverso la rete diplomatico-consolare all'estero a un'esigenza che è ormai evidente, è quella di porre ai nuovi emigranti una serie di informazioni gratuite per orientarsi meglio nella società che li accoglie. Avete già iniziato con questa iniziativa il 6 novembre, ma come funzioneranno esattamente questi atelier? Partiremo con una serie di atelier, in realtà uno già ha avuto luogo, dedicati a delle categorie di persone. Abbiamo cominciato con gli studenti, parleremo poi a un pubblico di lavoratori e poi ci rivolgeremo alle famiglie, in maniera di poter rappresentare a tutte queste categorie di persone delle situazioni che possono incontrare venendo in Francia, dare loro delle chiavi di lettura della società francese e dei codici di comportamento che possono aiutarli nell'inserimento e poi qualche informazione pratica anche con riferimento alle associazioni italiane presenti. L'emigrazione italiana pare aver ripreso vigore con la crisi. Cosa sta accadendo a Parigi? Sta arrivando una quantità maggiore di connazionali e qual è il loro identikit? Ormai è da alcuni anni che assistiamo a un aumento delle iscrizioni AIRE, intorno al 5% anno. Quello che sicuramente sta succedendo è che c'è una ripresa dell'immigrazione italiana in una forma diversa rispetto al passato. È possibile fare una stima ufficiale e ufficiosa di quanti italiani ci sono in Francia e a Parigi? È molto difficile, anche perché i dati AIRE non sono una fonte sempre chiarissima. La consistenza per il Consolato Generale di Parigi e in grosso modo i 135.000 connazionali iscritti all'AIRE. Sicuramente per la regione parigina si può parlare di un rapporto di 1 a 2, a volte anche di 1 a 3. Quindi sarebbero 3 volte tanto o 2 volte tanto rispetto alle stime ufficiali di chi si iscrive? Esattamente, sì. Info su consparigi.esteri.it per prenotarsi segreteria.parigi@esteri.it.

l'information technology, che qua è la punta di diamante dell'economia, sta comunque dando opportunità lavorative molto più importanti e ampie che in altri paesi d'Europa, perché se noi pensiamo che comunque a Dublino c'è per esempio il quartier generale europeo di Google, che ha più di 3.000 dipendenti, c'è Facebook, per dire un altro nome, c'è LinkedIn che deve assumere altre persone, poi comunque l'Irlanda da Google è stato scelto come uno dei migliori posti per poter insediare i suoi data center per il controllo dei principali servizi. Quindi si tratta principalmente di giovani del settore IT? Sì, prevalentemente sì, la cosiddetta fuga dei cervelli, cioè sono persone che sono estremamente anche skillate, cioè hanno veramente delle qualifiche incredibili che in Italia non riescono a trovare sbocco e qui addirittura... Quindi in termini di salari e prospettive di carriera l'Irlanda, nonostante la crisi che ha vissuto e ha sofferto, ancora è più competitiva rispetto all'Italia? Certamente, per determinate nicchie di mercato assolutamente sì. Che quadro emerge in generale degli italiani in Irlanda? Il quadro è abbastanza semplice, nel senso che l'italiano è molto simile all'irlandese. Secondo me c'è un ottimo feeling tra l'humus, diciamo, locale e l'italiano. Per maggiori informazioni sul libro Italians in Ireland potete cliccare su www.irlandiani.com. Un motivo per restare o tornare. €1.000.000 l'anno per 25 anni è l'investimento del programma Ermenegildo Zegna Founders Scholarship, inaugurato con le prime 14 borse di studio. I finanziamenti fino a un massimo di €50.000 l'anno per candidato sono destinati all'alta specializzazione internazionale dei giovani talenti nati o stabilmente residenti nel nostro paese e desiderosi di rientrare in Italia dopo un soggiorno all'estero. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Give Back. Dibattetevi in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internettivo. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda, la discussione di novembre. Tempo di give back per i giovani italiani espatriati, imprenditori e non. In un momento così cruciale per il paese, quali possibili contributi pensate di dare all'Italia per far ripartire l'economia e ricominciare, soprattutto se li merita? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.